Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Due tablet e un robot per le pulizie come base mobile. Aggiungere un pizzico di codice open source, shakerare tutto e il robot ospedaliero a basso costo prende vita. Buonasera, benvenuti a Smart City. Parliamo di LHF Connect, progetto che mette a disposizione delle strutture sanitarie le istruzioni per la costruzione di un robot di telepresenza a basso costo, un robot guidato tramite un software sviluppato da un team di ricerca composto dall'Istituto Italiano di Tecnologia, che ha lavorato a questo progetto insieme all'Università di Pisa. E parliamo soprattutto di un software che viene rilasciato gratuitamente open source, disponibile attualmente sulla piattaforma Tech for Care, piattaforma che è stata lanciata dall'Istituto per la Robotica e le Macchine Intelligenti e dal Maker Faire Rome. Ne parliamo con Antonio Bicchi, che è ricercatore dell'IT e professore all'Università di Pisa ed è presidente appunto di IRIM, quindi l'Istituto per la Robotica e le Macchine Intelligenti. Buonasera Bicchi. Buonasera Maris. Allora, descriviamo subito questo oggetto, anche a partire proprio da una descrizione fisica, direi. Beh sì, come ha già anticipato, il robot è molto semplice, è costituito da una base mobile che utilizza un robot di tipo aspirapolvere commerciale, opportunamente modificato, che supporta due tablet, il primo dei quali è destinato alla interazione tra il paziente ed il mondo esterno, e l'altro è destinato invece alla guida da remoto da parte di un volontario che, rimanendo a casa o comunque in luogo sicuro, può guidare il robot nelle corsie dell'ospedale, della residenza per anziani, nelle case delle persone che devono rimanere isolate a causa del contagio. Quindi parliamo appunto di un robot intanto teleoperato ed è a bassissimo costo. Sì, sulla parola teleoperato dobbiamo intenderci. Il robot è un robot intelligente, ha una sua intelligenza artificiale anche piuttosto sofisticata che sta nel software. Però i comandi di alto livello sono dati da un operatore che fa una supervisione da casa, e questo operatore anche gestisce le comunicazioni. Per esempio, mette il paziente in comunicazione con la chiamata del suo parente o del medico che gli sta dando un consulto, e anche interrompe questa chiamata quando il tempo è finito. Quando lei dice di alto livello, vuol dire che, per esempio, io dico al robot dove andare, poi però lui è in grado da solo di evitare gli ostacoli o di raggiungere la destinazione, è corretto? Esattamente, evita gli ostacoli autonomamente. E in una seconda versione avrà anche la possibilità di utilizzare le mappe dell'ambiente e quindi di navigare nell'ambiente stesso. Rimane comunque importante, come dicevo, la supervisione di un operatore, di un volontario umano. Ecco, il costo? Ma guardi, se dipende da come va il mercato in un certo momento, perché tutte le parti che lo costituiscono possono essere ordinate online. I prezzi possono variare tra i 1.000 e i 1.200 euro per l'acquisto delle parti. Poi c'è bisogno di qualcuno che lo assembli. Voi fornite le istruzioni, fornite il codice open source di controllo, ma poi qualcuno lo deve mettere insieme, no? Senz'altro. Parliamo della sperimentazione, perché in questo momento è in corso con tre robot. Dove e che cosa ci si sta facendo? Allora, abbiamo provato il robot in due ospedali, il nuovo ospedale Apuano di Massa e l'ospedale dell'azienda ospedaliera universitaria Pisana a Pisa, e qui abbiamo fatto dei test di comunicazione tra parenti e pazienti. Anzi, uno dei robot, quello di Pisa, è oggi già operante tutti i giorni e mette in comunicazione i pazienti di un'area Covid dell'ospedale di Pisa con i loro parenti che li chiamano, e anche dei protocolli di telemedicina, se vogliamo, comunque di consulenza da parte di un medico su pazienti che non sono, diciamo, nello stesso reparto. La terza applicazione che abbiamo fatto è in una casa di riposo. A dire la verità non l'abbiamo fatta noi, è stata proprio un'iniziativa del direttore di questa casa di riposo di Induno Olona, che ha già replicato, seguendo proprio le istruzioni, approvvigionandosi delle parti direttamente dai fornitori su online, e lo ha costruito seguendo le nostre istruzioni, anche apportando già alcune Ah, migliorie caspita. estetiche ed anche in qualche modo suggerendo miglioramenti. Quindi proprio la filosofia del progetto è open source, come lei diceva, quindi aperta a tutto il mondo di quelli che, dei maker e di quelli che sanno, diciamo, come implementare e migliorare le tecnologie. Senta, a questo punto come procederà il progetto? Non so se avete in mente, oddio, ho paura a parlare di fase 2, ma insomma, mi dica lei. Ah, il nome del robot è LHF, sta per low hanging fruits, e sono quei frutti della ricerca che possiamo cogliere e mettere a frutto oggi. Nel frattempo la ricerca va avanti, le ricerche che stiamo facendo vanno avanti. I prossimi membri di questa famiglia LHF saranno robot per la sanificazione, ad esempio, che è un problema che si pone in moltissimi ambienti, sia ospedalieri che non. La sanificazione sia per via ultravioletta sia per via di spray, e questo sarà, diciamo, un'evoluzione abbastanza diretta. Ci sono altre problematiche che via via affronteremo. Una difficoltà che abbiamo oggi con LHF Connect è che il robot non può aprire le porte. Certo, E se i certo. pazienti stanno dietro una porta chiusa, è necessario chiedere aiuto al personale sanitario. Ecco, presto speriamo che sia possibile anche avere robot che avranno braccia per aprire le porte. Quindi dando una fisicità a questa intelligenza artificiale che stiamo aspettando che ci dia una vera mano. Grazie allora, grazie Antonio Bicchi. E Arrivederci e grazie dell'attenzione a tutti. allora ricordiamo che un tecnico avveduto è in grado, a partire dalle istruzioni che vengono messe a disposizione, di costruire questo robot e quindi invitiamo case di riposo, ospedali, almeno a informarsi su questo progetto perché può essere un aiuto concreto. Ci fermiamo qui, cari ascoltatori, a voi tutti buona serata e a domani.